debole, accorgi di tira tardi, accorgi di soldi, sono parole nei venti di bastardi approdati in top 20. Si chiamano artisti, ma sono dementi impotenti che si disperdono in echi più lenti. La radio li passa, la tele li passa, a noi non passa un cazzo. A stare a ascoltarli sono quelli belli, nei completi difendi, ma hanno cervelli più spenti degli sguardi dei morti. Sono zombie che avanzano lenti, immagini insane, per lo più diffuse, violenza e stupro alle muse. C'è chi cerca un faro e gli danno solo luci soffuse. Figli dei figli di servi al potere, hai il sedere al caldo e mai imparato a sopravvivere. Siete vipere che banchettano viscere, parlate di sere nere, attenti che può succedere. Musica trans. E noi poeti d'asfalto, condannati da uno sguardo al tramonto, aspettiamo l'occasione di una pensione, un pasto caldo guadagnato col sudore di un campione o di un accordo. Ma meglio morto che ricco, con il pezzo di un bastardo che ha fatto disco, punk, rock e il remix di Brasco. Gli spari sopra come Vasco, ma intanto sei in ascolto con l'orecchio attento all'uscita del nuovo singolo, dell'ennesimo pargolo. Era diventati famosi quando i tempi erano buoni, ora è successo di successione il titolo di signore. Parlate di commesse e non di signore, per voi è solo sesso, bro. Dov'è finito l'amore? Io non sono un artista, un fancazzista da 9-6. Chi cazzo sei? È meglio se ti alzi e poi te ne vai nudo come sei. Musica Atlantide. Atlantide affonda, sprofonda in musica di merda, è l'anno della bestia e non se ne parla di crescere in testa. Solo io il mio lavoro che resta, il sogno è un concerto al giorno, aprire menti in un momento, farli far fieri del mondo, farli toccare il fondo e poi rialzarli in un secondo. Dentro sento tempeste post-orgasmo, mi riplasmo e non biasimo chi fa una vita facile e semplice, perché il padre è complice, ma intanto sprofondo e la disperazione è lo sfondo. E in fondo apprezzo chi ad un vostro ascolto preferisce 2 minuti di silenzio.